Ore 8:19 di martedì 15 febbraio, ieri la registrazione è miseramente saltata per il motivo forse più banale in assoluto, vale a dire ho dimenticato il registratore a casa. E questo è il bello e il brutto del podcasting, che essendo tutto nelle mani di una sola persona possono anche capitare queste cose. Tornato ad essere piuttosto freddo, anche se i giornali questa volta ignorano il fenomeno meteorologico, perché la morsa del gelo sarà solo già giocata una volta, non fa più notizie, almeno per quest'anno. E proprio ieri sera mi è capitato per le mani il curriculum di Jacques Rogge, che dovrebbe essere, non vorrei sbagliarmi, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, e sono rimasto un po' colpito perché, guardando un po' le sue esperienze passate, è stato un atleta della nazionale belga di vela, il che è già quasi una contraddizione in termini. Comunque, questo signore non mi sembra avere nessuna competenza manageriale, se andiamo a vedere il suo passato, ed è questo un tema che ritorna nelle carriere di quasi tutti i dirigenti sportivi. La figura del dirigente sportivo in sé è abbastanza atipica, perché alla fine sono persone che hanno spesso un passato di atleti, che si ritrovano a dover applicare le stesse regole competitive in un ambito che non è un ambito sportivo, e tutto questo spesso si traduce, parlo del mondo chiaramente dei manager, si traduce in una lotta senza quartiere, dove vengono adottate così tecniche di lotte di potere veramente così anche un po' retro, se ci pensiamo. Pensiamo al modo in cui hanno fatto carriera i nostri dirigenti sportivi, su cui forse sarebbe il caso di parlare in una separata sede, perché il caso italiano credo che sia veramente particolare. Però se andiamo anche a vedere per esempio quello che succede puntualmente quando vengono organizzati i giochi olimpici, siccome i delegati delle nazioni, dei vari comitati olimpici che decidono in quale città si svolgerà la manifestazione, vengono da paesi con diverso peso economico e anche diversa resistenza alle mazzette, puntualmente succede che la città vincente ha dovuto corrompere magari i delegati di paesi minori. E chiaramente tutto questo viene anche in mente perché di recente proprio l'organizzazione dei giochi olimpici è rimasta in causa. C'è stato il problema anche dei mondiali di sci, nel quale un po' tutti hanno giocato a far finta di non sapere che era stato programmato uno sciopero che è stato annunciato con 2 settimane di anticipo, se non sbaglio. Ora, non voglio assolutamente giustificare lo sciopero selvaggio che ha messo a repentaglio la già abbastanza danneggiata immagine del nostro paese. Però il problema è che nessuno degli altri attori del gioco mondiale di sci si è comportato come se questo fosse un dato noto. Il comitato organizzatore ha ignorato il fatto, le altre televisioni internazionali hanno ignorato l'eventualità che potesse essere rinviata la gara. È partita una gara, diciamo così, parallela, quella dello scaricabarile, nel quale noi italiani indubbiamente siamo molto bravi. Il problema è che stavolta eravamo perdenti in partenza, perché giocavano contro di noi tutti gli strameritati pregiudizi che pesano sul nostro popolo.